You're just losing your mind. You're just losing your mind. Questa è Rock FM, questa è la Nottedo, parte una nuova gem, Aldo, Borchia, Tonjo, Numa, Edo Rossi, yeah. All'attacco, questa è Rock and Roll. Yeah. Oh, yeah. Oh yes, allora, dunque, siete ancora all'ascolto della Nottedo a Rock FM tutta la notte. Questa era Spoonman. Allora, cosa facciamo? Vuoi fare quella cosa lì? Facciamo. Ma abbiamo il testo stampato avanti? No. La facciamo dopo, la facciamo dopo, dai, facciamo dopo. Senti, io vi chiederei se ci lasciate fare una camporata, che dite? Questa è intanto. Esatto. È un po' la camporata. Esatto, ci facciamo un pezzo nostro che, insomma, è una canzone della quale ovviamente. Aldo deve parlare molto, perché la sente molto questa canzone, l'ha scritta. Sì. L'ho scritta io. È uno dei pezzi che, diciamo, ha scritto praticamente da solo, insomma, anzi, è uno dei tanti testi che ti sei scritto da solo. Sulla tua esperienza personale. Su esperienze personali, delle quali comunque sarebbe meglio non parlare. Ah, allora sei di quei cantanti che poi non. Ma non è che ne posso parlare più di tanto per una questione legale. Per questioni legali e anche forse morali. No, morali per niente. Assolutamente. Legali, solo legali. Solo legali. Solo legali. Legali. Allora. Solo legali. E questa canzone. Tutta, tieni che sto cambiando chitarra. Niente, questa canzone. Questa canzone parla di rapporti. Sì, sono rapporti tra uomini e donne, credo. Sì, esatto. Credo di sì. Senti, fai un po' il DJ di Rock FM. Ah, ricorda sì, anche il numero. Io ricordo il numero. Sì, SMS. SMS, che è 335 100 7777. Mi raccomando, scrivete, fatevi sentire. Allora, noi siamo qua tutta la notte, quindi cioè. Tanto noi siamo qua sì. A fare del rock and roll, insomma. A rompervi col rock and roll. Esatto. Ma no, esatto. Ma no. Allora, no, ma perché da dove veniamo noi? Il rock and roll rompe. Mica esatto. Qua, mica come qua. È quasi felice. Dà un po' fastidio. Però anche qui ci stanno mandando a casa, caro Aldo, purtroppo. Ritengo che non sia giusto. Allora, chiedo a chi è in regia, che in questo momento è il tonge, questo mi fa impazzire, di spegnere il microfono 3, gentilmente. Ecco, perfetto, così abbiamo anche un suono più bello e ambiente. Volevo anche dire che Tonio assomiglia in modo impressionante a Frank Zappa, soprattutto stasera. Thank you so much. Olè, olè, abbiamo un nuovo regista, benissimo. Domani sei acquistato per la. Verrò a lavorare qui dal lunedì prossimo. Ok, grandissimo, Tonio. Bene, allora, noi proviamo a fare questa cosa che non abbiamo mai provato in acustico. Assolutamente. Però, no. Visto che è un po' una sorta di nostro secondo singolo, quell'altro di prima era il primo, questo potrebbe The essere Monster, il secondo. Questo potrebbe esatto. essere il secondo. Esatto, allora ce la suoniamo un po' così come viene, viene. Beh, io. Tanto siamo sotto registrazione, quindi. Bah. Bellissima questa. Io, esatto. Se posso permettermi, questa canzone la dedico a una persona che mi sta seguendo, che sa che sono qua, e la dedico a Silvia, a Dark Doll, che mi segue da Monza. Grazie. Silvia. Da Monza? Da Monza, da Monza. Potrebbe essere una nuova canzone. Da Monza! Dai, ci proviamo. E sentiamo questi a Camporas. Yeah. Aspetta un attimo. Tonjo, c'è il volume 3 da tenere a zero. Non i microfoni, le due piste centrali, quelle lì, esatto. C'è il terzo che deve stare a zero. Ok, grazie, che era la base. Altro che okay. La chiabotte è Real TV. Esatto. Noi ci abbiamo Real Radio. Esatto, ok, perfetto, via. Summer comes, you look at me and start to grin. I'm waiting in your sweet 17. Your anxieties are cross to bear. This life's unfair, but you're the one that cares. Our bodies, we write this song for all night long. And on and on and on and on. Side, I will blind your eyes through tears. Happy dance and you lay flowers on my grave. On my grave. I feel a distance in your rage. Seems like you're closed inside a cage. You're masking your reasons with white lines. We're live in the brooks with smiling eyes. But take me as I am. I'm not Superman, but I can comprehend. And I'm not your answering God. If you want more, go out the door and ask the Lord. Time is on your side. I will blind your eyes through tears. Evidence and you left flowers on my grave. On my grave. Gli Acamporas in versione acustica. Oh yeah, la splendida voce di Aldo. Oh yeah, grazie. E la leziosa chitarra di Edo che ha pure sbagliato mezzo solo. La leziosissima, la chitarra quasi porno di Edo. Porno maso sado. Yeah. Allora 335-100-7777 il numero SMS per raggiungermi. Ora un paio di dischi della mia collezione e poi torniamo a fare del rock and roll in diretta qua da Rock FM nella Nottedo. Don't desires come in. Bring some light. Just as the gauges and storm breaks loose, just help to make it. We still wanna choose. Mamma mia. Porca miseria, ma Maurizio Follisi come fa a fare le nottate così lunghe? Mamma mia, io sono demolito e sono alla seconda ora di diretta. Allora, sono le 2:40 in diretta su Rock FM, c'è la Nottedo. Nel frattempo stanno arrivando un po' i vari SMS, che prima c'è stato il blocco. Vi ricordiamo che il numero SMS, lo dico di giorno, lo dico di notte, lo dirò sempre, il 3351 00 77 77, non è telefonico, quindi se voi telefonate a questo numero inchiodate il lettore e basta, e quindi ci create soltanto dei problemi e non possiamo neanche sentire la vostra voce perché non è un numero telefonico. Allora, dunque, Rock You Like a Hurricane, una canzone importante per il DJ Edo, perché insomma mi ricorda la splendida nottata in quel del The Sad, dove abbiamo presentato il gioco Guitar Hero, ma in realtà la presentazione Guitar Hero 3 è stata anche una scusa per poter gemmare insieme a grandi musicisti della scena italiana. Ricordo Rocky Like Hurricane, suonata insieme a niente meno che Federico Poggi Pollini e a il cantante GL degli Extrema, insomma la batteria Andrea J, insomma c'era veramente c'era il bassista Ale dei Ritmo Tribale, Briegel dei Ritmo Tribale, insomma veramente una bella situazione, con i super cori naturalmente del grande Max De Rio. Allora, dunque, è arrivato il momento di riaprire lo studio dei musicisti. Chi c'è di là? Aldo? Dov'è? No, non c'è. Chiamare Aldo, bene, ok. E Dado. Ok, benissimo. Stiamo attendendo Aldo, nel frattempo anche abbiamo... Anche Dado? Perfetto. Io non ho un attimo di treno. Un applauso applauso per il Borchia che si è sparato. Thunderstruck. Thank you, thank you. Ok, chi vi manca ancora? Il bassista, Dado, il bassista, Dado. Non ci abbiamo un attimo di tregua. Non trovate il bassista. Porca miseria, com'è possibile questa mancanza di disciplina? Ma che cosa dobbiamo fare? Facciamo, esatto. Adesso facciamo Alice in Chains. Esatto, Alice in Chains dobbiamo spiegare. Dobbiamo spiegare che però la formazione è cambiata. Tongio, grazie. Abbiamo Tongio alle percussioni. Evviva, aspetta. Abbiamo Aldo che non ha un momento di pace alla voce. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo il Borchia finalmente trasferito alla chitarra. E il Dado finalmente. Grande, è arrivato con il 99. Esatto. Se la stava un attimo pescando, era di là con, mamma mia. Fa il bravo. Questa è la Nottedo, siete su Rock FM e ce n'è ovviamente per tutti. Abbiamo trasformato in una notte gente. Tra l'altro qualcuno prima scriveva via SMS, altro che John Peel Session. Beh, non sarebbe male, insomma. Bene, allora ci siamo, cari miei musici, siamo pronti? Non ho ben che minima idea. Benissimo, c'è un po' di delirio. Guardate che vi punisco trasmettendo un disco, Ok, ci siamo? Direi che ci siamo quasi. Come avete visto, tanto il Borchia intrattiene con il mio amico Brian May, il nostro amico Brian May, naturalmente. Ok, via. Allora, prima abbiamo aperto il discorso sugli anni 90 e ora questa nuova formazione lo continuerà. Prego. Aldo, are you ready for the start? Oh yes, I'm fucking ready. French, don't fuck the microphone. Okay, let's go. Okay, let's go. Quanto è notturno questo pezzo, porca vacca. Questa è la Nottedo, la notte gem, la Rock FM. Prego. My Ragazzi, in americano si dice kicking ass version. Avete spaccato il culo, bravi. Yeah! Hey, make some fucking noise in the air. Esatto.